punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. He has to leave as soon as possible. He has to stop killing the Libyan people. The Libyan people has been patient enough for the last 42 years, and I think he has to give up, and he has to leave the country as soon as possible. Mercoledì pomeriggio a New York, lontano da casa sua, lontano dalla sua patria, dalla minaccia della Guardia Popolare Rivoluzionaria di Gheddafi. La voce che avete sentito è quella di Adham Tarbah, diplomatico libico alle Nazioni Unite, che parla del suo leader, del colonnello Gheddafi, e dice sostanzialmente se ne deve andare, deve finire di uccidere la sua gente che per 42 anni l'ha sopportato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti al nostro appuntamento con Punto e a Capo, il momento della settimana di Radio 24 in cui raccogliamo un po' le idee su ciò che abbiamo sentito raccontato durante queste giornate. Naturalmente la Libia è in primo piano, ma ci saranno diversi altri temi. Parleremo anche delle proposte di legge sul processo breve, delle accuse della NM che parlano appunto di un progetto ammazza processi. Parleremo poi del caso Ruby e degli sviluppi, naturalmente, del coinvolgimento del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Poi ci occuperemo di Affittopoli nella sua diciamo versione milanese, che riguarda dunque la Baggina cosiddetta, il Trivulzio, ma anche di sviluppi e percorsi che portano a Roma. Insomma, come sempre, molti temi diversi. Ci occuperemo anche di economia e proprio da questo vorrei partire, ricordando una notizia che è passata questa settimana, che riguarda l'occupazione nelle grandi imprese, che nel 2010 è diminuita dell'1,6% rispetto al 2009. È un dato che viene indicato dall'Istat, l'Istat che precisa che il dato è al lordo della cassa integrazione. Al netto della cassa, l'occupazione nel complesso delle imprese con oltre 500 dipendenti è diminuita dell'1%. Anche questo naturalmente è stata la settimana delle notizie raccontate da Radio 24. Punto e a capo. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Allora ripartiamo da giovedì per raccontare questa settimana drammatica in cui a sud del Mediterraneo si assiste all'escalation. Quello che sembrava caotico nella situazione tunisina prima, egiziana poi, non è veramente nulla rispetto a quello che emerge dalla Libia, dove al furioso discorso tenuto a Tripoli dal colonnello Gheddafi ha fatto seguito lo scatenarsi di una repressione che proprio nella giornata di giovedì è apparsa non avere più freni. Ecco allora il punto curato da molte voci della redazione di Radio 24 alle 13 di giovedì scorso. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Mentre arrivano racconti drammatici di nuovi bombardamenti sulla folla Tripoli e in altre città libiche, come sentivate dai nostri titoli, il colonnello Gheddafi dovrebbe parlare tra poco, così almeno è stato annunciato. Intanto però a Bruxelles, come vi abbiamo anticipato nel giornale radio delle 12, si sta valutando un intervento immediato anche militare per fermare il massacro e per aiutare i profughi e gli stranieri in fuga dal paese. Allora sentiamo subito che succede su questo fronte, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Bruxelles accelera dunque sull'emergenza libica. Stiamo cercando un appoggio navale militare per far rientrare a casa le migliaia di cittadini europei che ancora sono nel paese nordafricano, dice un portavoce della Commissione. L'opzione militare a scopo umanitario entra dunque nell'agenda dell'Unione, Unione che frena invece sul tema immigrazione. Per il momento viene spiegato non si registrano movimenti di immigrati dalla Libia verso il continente. Secondo fonti europee, la strategia dell'Unione punterebbe a dare sostegno ad eventuali profughi organizzando dei centri di accoglienza direttamente in Tunisia e Egitto. Il ministro dell'interno Maroni tuttavia invita a fare presto. L'Italia, spiega il ministro, può fronteggiare l'emergenza ma non per tanto tempo. Sentiamo Maroni. Bisogna passare dalle dichiarazioni siamo pronti a alle azioni. Allora il fondo si costituisce, le iniziative che abbiamo proposto sono attuate bene, se no di fatto noi oggi l'Italia sta gestendo questa emergenza con gli strumenti messi in campo dalla Protezione Civile italiana e dal governo italiano. Siamo in grado di fronteggiare l'emergenza, sì,

avete cercato di fare? Quando ci hanno detto di abbandonare il campo base, il mattino seguente siamo partiti alla volta dell'Egitto, portati dai nostri dipendenti libici che hanno sempre curato alla nostra sicurezza in maniera totale. Momento di commozione veramente forte, perché i ragazzi si sono messi a piangere, cioè perché ce ne andavamo, si sono scusati di questo tipo di situazioni, perché naturalmente non volevano vederci partecipi. L'azienda ovviamente cesserà la propria attività lì in Libia. Per noi da escludere, perché la nostra azienda ha preso una commessa da 100 milioni di euro e noi speriamo di ritornare giù al più presto a poter continuare l'attività. Ecco, avete sentito una testimonianza molto precisa, molto interessante di questo signore che ritorna verso Venzone. Venzone, peraltro, piccolo, meraviglioso paese ai piedi del Carso, scenografia del addio alle armi nella versione cinematografica del 57 firmata da Jonazzo. Insomma, avete sentito cosa ha detto questo lavoratore della Ravanelli? Sono 100 milioni di contratto per l'azienda friulana, sono soldi importanti. Avete sentito anche nelle sue parole la critica esplicita alla Farnesina. Insomma, prevedibile, non prevedibile. Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri, parla a Radio 24. La mia domanda è a tutti quelli che oggi lo condannano. 10 giorni fa qualcuno avrebbe dato con certezza che Gheddafi faceva sparare sulla folla, cioè le reazioni avvengono anche di fronte ai fatti, forse nessuno se l'aspettava, non è avvenuto in Egitto, non è avvenuto in Tunisia, non è avvenuto in altre parti, voglio dire evidentemente siamo di fronte a una cosa, come dire, non prevedibile, come non era prevedibile, appena se ne è avuta la certezza è stata la condanna totale e assoluta da parte del governo e da parte dei paesi europei, sì. Del senno di poi sono piene le fosse, dicevano i nostri genitori, e quindi mi pare che occorra procedere con molta, oltretutto che Gheddafi dirige questo paese da 42 anni, sì, o 42, sì. Forse in 42 anni c'era ancora Moro nel 73 quando fece il primo accordo con Gheddafi. Di certo c'è che gli interessi italiani in Libia sono estremamente importanti, significa 24% del petrolio, 10% del gas, insomma. Sentiamo dalla voce del capo degli industriali italiani Emma Marcegaglia una sintesi proprio dell'importanza economica di questo rapporto storico. Noi abbiamo rapporti economici importanti con la Libia, esportiamo là circa 2 miliardi e mezzo di euro di beni, importiamo 10 miliardi di euro che sono il 24% del nostro petrolio e circa 12% del nostro gas, quindi abbiamo tante aziende nostre nel settore anche delle infrastrutture impegnate e quindi qualche timore c'è. Per il momento l'approvvigionamento del petrolio e del gas non ha problemi, però insomma c'è una preoccupazione complessiva. Il governo e la Farnesina stanno portando via alcune centinaia di lavoratori, diciamo, delle nostre imprese. Abbiamo stoccaggi fino all'estate, così sempre. Questo però insomma non toglie il fatto che da parte nostra c'è una ferma condanna a quello che sta succedendo dal punto di vista umano. Nel frattempo però gli eventi seguono il loro corso. Allora anche la D di Eni Scaroni spiega le decisioni prese in materia di gas. Il problema delle forniture di gas per l'Italia è un problema che non si pone, nel senso che intanto la Libia rappresenta relativamente poco, un po' più del 10% delle nostre forniture. Siamo verso la fine della stagione invernale, c'è gas in tutta Europa in abbondanza, abbiamo ampliato la TAG e la TTPC, quindi i due tubi che ci collegano alla Russia e all'Algeria. Ecco, questo per il fronte economico. C'è però anche un piano tutto emotivo dei rapporti tra Libia e Italia. Ed è ovviamente quello che affonda nella storia dei rapporti tra questi due paesi. È una storia di dolore, di repressione da parte italiana dell'Italia coloniale, una ferita che gli accordi di Bengasi del 2008 hanno chiuso formalmente con l'accordo appunto tra Gheddafi e il governo italiano rappresentato da Silvio Berlusconi. Una vicenda molto complessa, quella tra Italia e Libia, che Angelo Del Boca, uno dei massimi storici al mondo sulla materia, cerca di sintetizzare per noi al microfono di Alessandro Milan. Sapevamo anche 2 o 3 anni fa che Gheddafi era un dittatore, sapevamo perfettamente che la Libia non rispetta i diritti umani. Non c'è Quindi dubbio. Tutto questo è nato in un'atmosfera di amicizia fra Berlusconi e Gheddafi. Ecco, quindi in un certo senso il nostro errore va molto lontano, però voglio anche dire che noi eravamo anche costretti a fare questo passo, perché Gheddafi giustamente ci ricattava continuamente dicendo: voi siete responsabili di 30 anni di dura repressione, non dimenticate che 100.000 persone, vale a dire un ottavo della popolazione della Libia, sono state uccise da voi, e quindi voleva da anni, addirittura dall'anno dopo che ha preso il potere, voleva assolutamente che ci fosse un risarcimento. Il risarcimento l'abbiamo dato ed è un risarcimento molto pesante, perché 5 miliardi di dollari per, insomma, non è poco. Ecco, quindi noi siamo sempre stati in una posizione che ci impediva in un certo senso di parlare chiaro. Ecco, questo lo voglio dire, anche se non ho molto apprezzato l'atteggiamento del nostro governo. Punto e a capo. La norma transitoria della proposta di legge sul processo breve, quella accusata dall'ANM di essere ammazza processi, potrebbe essere cancellata. È l'ipotesi di lavoro, riferisce una fonte parlamentare, emersa nella riunione di metà settimana della consulta giudiziaria del PDL, dedicata all'approfondimento tecnico sui testi di processo breve e DDL intercettazioni. Sentiamo su questa vicenda il punto di Paolo Piacenza. Sulla giustizia la maggioranza mette le macchine avanti tutte e così dalla consulta del PDL esce un ampio programma di iniziative legislative di altro tipo con un denominatore comune: mettere il Premier al sicuro dei processi. Nonostante due giorni fa il guardasigilli Alfano avesse detto che il processo breve non è una priorità, ieri la maggioranza ha deciso di accelerare i tempi. La riunione dei capigruppo di Montecitorio ha calendarizzato il passaggio alla Camera per il 28 marzo, mentre resta da fissare la data per l'esame della legge sulle intercettazioni. La svolta più importante in ogni caso dovrebbe arrivare dalla presentazione in Consiglio dei Ministri della riforma costituzionale della giustizia. La consulta del PDL conferma l'intenzione di sollevare il conflitto di attribuzioni con i magistrati e la clausola di improcedibilità per il Premier. Diversi organi di stampa infine confermano che si è parlato di un'ultima iniziativa che tuttavia al momento resta una semplice ipotesi: una revisione della legge sulla prescrizione a favore degli incensurati, che potrebbe garantire al Presidente del Consiglio un più rapido decorso dei tempi dei suoi processi. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 17 marzo, allora la festa è decisa e la polemica della scorsa settimana solo in parte sopita. Sentiamo Matteo Salvini della Lega Nord. Ma la preoccupazione della Lega e di molte persone anche che non votano Lega, comunque, che si usino queste celebrazioni per mettere la polvere sotto il tappeto, per far finta che vada tutto bene, per far finta che l'Italia sia unita, perché io sfido chiunque ci stia ascoltando, a prescindere dall'idea politica e dalla professione, a dirci che oggi l'Italia è unita, che il sistema scolastico siciliano è paragonabile a quello veneto, che un ospedale calabrese funziona come uno lombardo e che soprattutto il pagamento delle tasse, il livello di spreco, di assistenza e di parassitismo sia uguale. Il saggio di Luca Ricolfi, Il Sacco del Nord, ci ricorda come c'è una nazione dove ogni anno 50 miliardi di euro partono da nord e giungono chissà dove. Quindi che cosa festeggeremmo il 17 marzo? Una ricorrenza storica sicuramente, anche se controversa. Io ho studiato storia all'università, la storia la scrivono i vincitori, però fortunatamente, oltre a questa mattina su Radio 24, in libreria iniziano a uscire tanti libri che rileggono il Risorgimento anche nell'ottica dei conquistati, perché vista da sud il Risorgimento fu un'operazione di colonizzazione economica e militare che portò malattia, portò il servizio militare, portò tassazione. E visto da nord, ripeto, fu una fusione di due realtà che erano diverse allora e rimangono diverse oggi. Dal lombardo Salvini alla romana Meloni, ministro per la gioventù, che risponde così. Io penso però che a monte ci sia una questione, cioè noi quando si tratta di questi temi, cioè quando si tratta di noi, dell'Italia, del senso d'appartenenza, delle ragioni che ci legano e del fatto che ogni tanto, come in qualunque grande nazione del mondo, vale la pena di celebrarsi, noi facciamo esattamente quello che per esempio fa lei, cioè ma tutti quanti, spacchiamo il capello in quattro e siamo lì a vedere se le date appunto che abbiamo scelto sono le date perfette, se gli uomini erano uomini perfetti, se in qualche maniera tutti i nostri trascorsi storici erano all'altezza, se non valga la pena di farlo in un'altra maniera, se culturalmente sia quello l'elemento da valorizzare, il che è straordinario sicuramente, però ci ha man mano tolto il gusto di celebrarci, che è la base del vivere comune di ciascuna nazione nel mondo. Punto e a capo. Silvio Berlusconi si difenda nelle aule di tribunale dalle accuse del caso Ruby, ma in ogni caso va battuto alle urne. Gianfranco Fini, in un'intervista all'Espresso, torna sull'inchiesta di Milano, ripete quello che ha dichiarato sulla vicenda appena scoppiata, cioè 4 mesi fa. Se quella telefonata c'è stata, ci sarebbe un uso privato di incarico pubblico. Nulla da aggiungere oggi, se non che sottoscrivo in pieno quanto ha detto il capo dello Stato. L'imputato ha diritto di difendersi nel processo, non dal processo. Naturalmente della vicenda Ruby e diciamo del percorso giudiziario in vista della data appunto del 6 aprile abbiamo parlato anche all'interno dei nostri programmi, tra gli altri La Zanzara, dove ha partecipato l'onorevole Beatrice Lorenzin, deputata PDL. Il tema è Ruby, il presidente doveva o non doveva fare quella telefonata alla questura di Milano? Sentiamo. Non doveva farla fare a qualcun altro e lui l'ha fatta in modo molto ingenuo. Doveva farla fare a qualcun altro? Non doveva farla fare a nessuno, lui è stato molto ingenuo a fare quella telefonata. Non doveva chiamare neanche lui, quindi. Ah, molto ingenuo, molto non doveva ingenuo. Chiamare manco lui. Credo che non, che non sapesse che telefonando, anche soltanto per fare una telefonata, per cercare di aiutare una persona, in quel momento poteva incorrere in una sanzione, in un possibile reato, in una sanzione, in un possibile reato. E qui sta anche, secondo me, poi la radice della sua innocenza, perché l'ingenuità, ingenuo a fare quella telefonata. È stato, non ha proprio neanche potuto immaginare che stava ma poteva farla qualcosa. Fare a tante persone, e non sarebbe successo nulla. Ma lì forse se avesse fatta fare a tante persone avrebbe avuto un retropensiero, che era una cosa che non si poteva Giuliano Ferrara fare. Giustamente dice ci sono 1000 persone che potevano fare quella Infatti, telefonata. Giuliano Ferrara gioca su questa cosa, dice guarda, proprio perché l'ha fatta lui in questo modo, e tra l'altro non è che ha dato un ordine, ha chiesto un'informazione, ho capito. Non c'è neanche ha detto la concussione. Liberate quella ragazza. No, non ha detto questo. Vabbè, adesso poi c'è una controversia su questo, ci sono state pressioni. Andiamo nel merito nella dichiarazione del funzionario, non c'è questo. Ma qui andiamo nel merito della concussione, non concussione, pressione, non pressione. La ragazza è stata liberata ed affidata a un'altra persona. Punto e a capo. E tra i temi della settimana c'è senz'altro quello di Affittopoli. Tra i nomi eccellenti, molti intervengono a Radio 24 per spiegare, diciamo, ciascuno la propria verità. E c'è anche Luciano Bonocore, esponente della destra, ora nel PDL, che è stato appunto indicato che è presente nella lista milanese di Affittopoli. Però il caso di Via Moscovo 25, dove c'è solo un politico che sono io, perché i politici, quelli che contavano, non vanno in Via Moscovo 25 senza ascensore, 4 piani a piedi, casa disastrata, è tutta gente che sta lì da 100 anni. E quindi fare questa campagna significa espellere la popolazione, diciamo, che ci vive lì, perché queste sono case che Milano erano fatte proprio per creare la mescolanza sociale, no? Sì. Insomma, questa è la posizione di Bonocore, che sembra quasi una vittima per un appartamento di 128 metri quadrati in via della Moscova 25 a Milano. Il politico paga 5.700 euro e non è proprio che via Moscova sia un indirizzo da buttare via, tutt'altro. Siamo a pochi passi dal Corriere, siamo tra l'Arena e i giardini di Porta Venezia. Ma insomma, Luciano Bonocore non si ferma e suggerisce anche a Barbara Ciabò di indagare intorno ad un armadio segreto. L'altra cosa che chiederei alla Ciabò, lei è presidente della commissione, sì. Credo che le faccia piacere quelle che le dicono, le risulta che al Demanio di Milano esiste un armadio che si chiama LD, e dove questo armadio, che contiene decine e decine di documenti riguardanti immobili, il comune, per questo armadio di che nessuno può vedere, il comune perde 2 miliardi all'anno. Che fa? L'armadio dei segreti? Che c'è? Bravo. Bonocore rivolge la domanda a Barbara Ciabò, esponente di FLI e soprattutto presidente della commissione Demanio del Comune di Milano, consigliere comunale di fatto, che indaga per far luce sullo scandalo immobili, dunque partendo dal Trivulzio. Barbara Chaboy, insomma, la persona che ha scoperchiato la vicenda e che ora sembra che in molti corrano ad aiutare. Dal 2007 che porto avanti questa opera di trasparenza, e lo devo dire che faccio abbastanza in solitudine, però vado avanti perché noi donne siamo un po' così, no? Siamo un po' caparme quando vogliamo raggiungere un obiettivo, di solito piano piano ce la facciamo. E rispetto al patrimonio immobiliare del Comune di Milano mi sembra aver fatto abbastanza e ultimamente quando l'abbiamo ricontrollato abbiamo visto che tutti i contratti scaduti sono stati rinnovati a un prezzo di mercato, quindi a un canone molto più elevato, e questo appunto per una valorizzazione migliore del patrimonio. Dell'esistenza di questo armadio non mi risulta. Però adesso chiederò immediatamente al direttore del settore se mi dà ulteriori informazioni. Gian Giacomo Schiavi, io devo chiudere perché ho un minuto. Allora, le cose sono di questo armadio LD, e poi la mia considerazione è questa: la gente è arrabbiata perché gli hanno toccato in vari modi la casa. Ma certo, ma il compito dei giornali è chiedere. E qui bisogna chiedere i criteri di assegnazione, quali sono stati, le cifre pagate sono in regola, diciamo così, con i prezzi medi di mercato, le vendite di favore e non le svendite, la valorizzazione del patrimonio. Ecco, questi sono i punti da chiarire nella vicenda Baggina. Affittopoli anche in versione romana? Dopo Milano, anche a Roma si parla di un possibile affittopoli a proposito delle case Enasarco. A Focus Economia il presidente di Enasarco, Brunetto Coco. Nessun caso di affittopoli per quanto ci riguarda. Io non so giudicare quello che sta avvenendo a Milano perché non ho approfondito, ma per quanto ci riguarda noi abbiamo 15.000 appartamenti a Roma e 50.000 persone che abitano nei palazzi della Fondazione Enasarco, e gli affitti sono determinati attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, così come previsto dalla legge sull'equo canone. E negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, questi affitti sono stati progressivamente aumentati, ovviamente tenendo presente che il 98%, 99% delle persone che abitano i nostri palazzi sono persone che, pensionati, lavoratori dipendenti, artigiani, e quindi questa è la nostra popolazione. Poi abbiamo alcuni palazzi, circa 7, 8, 9 palazzi che sono non di così considerati di pregio, ma palazzi in buone zone di Roma, perché tutti i nostri palazzi sono prevalentemente nella periferia di Roma, ai quali abbiamo cominciato mano a mano che scadono i contratti d'affitto ad affittare, a stimare degli affitti di mercato e quindi ad applicarli. Questa è la politica che noi abbiamo fatto ed è assolutamente trasparente, perché non abbiamo niente da nascondere e non ci rifugiamo nel passato. Punto e a capo. Ancora ben ritrovati per questi ultimi minuti. Ripartiamo da Sottotiro di Roberto Galullo. Qui vi ripresento un'intervista realizzata all'imprenditore calabrese Tiberio Bentivoglio, ferito da alcuni colpi di pistola in un agguato tesogli in un terreno agricolo di sua proprietà. Bentivoglio si è salvato per caso e questo è stato l'ultimo di una lunga e gravissima serie di attentati contro di lui, contro i suoi interessi e la sua persona. Come sta? Quali sono oggi le sue condizioni? No, grazie a Dio sono molto migliorate, incomincio a deambulare con le stampelle, in casa stesso non sono ancora uscito, però psicologicamente sono ancora morto, ma molto provato. Perché colpirla dopo tanti anni passati in questi, appunto, a propagandare il verbo della legalità? Beh, non è così la storia. La mia storia è iniziata nel 92 con il primo disturbo ambientale cosiddetto. Sì. Poi nel 98 se ne sono verificate altre due, con la distruzione anche di un mezzo di lavoro, di un furgone. Ci sono indagini in corso e non tutto si può dire. Certo. Però nel 2005 già era iniziato un processo, diciamo, un po' nervoso, dove mi ero costituito, presentato, denunciato, fatto nome, raccontato la storia, raccontato i moventi, eccetera. Un rito abbreviato che si è concluso in primo grado proprio un anno fa, con la condanna di 3 persone per associazione mafiosa, e proprio all'anno preciso questo è successo, però già a ottobre del 2010 avevo fatto altre 3 denunce per falsa testimonianza e favoreggiamento per altre persone che si sono venute a creare queste condizioni durante il processo. Ecco. E quindi mi sono sentito di farlo, francamente. Certo. E ho avuto una grande solidarietà quanto riguarda la gente bene della città. Togliamo il disturbo, saggio sulla libertà di non studiare. Un libro, questo nuovo, di Paola Mastrocola, che è un'analisi davvero impietosa della nostra scuola. Ieri in Scuola in Controluce l'intervista appunto alla professoressa Mastrocola di Maria Piera Ceci. In copertina una professoressa che butta via alcuni libri. Sì, li butta, ne butta 2 o 3 dietro le sue spalle. Perché si è un po' stufata di andare in classe a convincere ogni giorno i ragazzi che è bello studiare, che è bello leggere, che bisogna stare in casa qualche ora al giorno sui libri, che un giorno capiranno l'utilità, che il latino non è inutile, che la grammatica bisogna farla e che la lingua italiana bisognerebbe saperla. Dal suo libro emerge anche un ritratto dei ragazzi che, voglio dirlo, lei non li colpevolizza, devo dire la verità. Probabilmente sono in parte vittime di questa scuola, di questa società più in generale, però insomma li descrive in maniera davvero poco lusinghiera. Non studianti, assenti, chattanti, che dedicano più tempo a vestirsi, a truccarsi per le ragazze, a mettersi a posto i capelli, la cresta per i ragazzi, insomma hanno tempo per tutto meno che per studiare. Ma guardi, allora, i nostri ragazzi sono veramente meravigliosi. Il problema è a casa che non aprono molto poco i libri, o comunque se li aprono aiutati dalle madri, dalle nonne, da infiniti professori che fanno lezioni private. Cioè c'è proprio questa idea di fatica. Punto e a capo. Un mese fa la mostra Salvador Dalì, il sogno si avvicina, che si è svolta a Palazzo Reale a Milano, si era chiusa con il record di 330.000 visitatori. Ora, sempre a Palazzo Reale, arriva Alberto Savinio, la commedia dell'arte, dedicata alla pittura di un artista multiforme del Novecento, fratello di Giorgio De Chirico, il curatore Vincenzo Trione. Il Novecento ha avuto tanti grandi pittori, ma ha avuto pochi grandi artisti. Savinio è stato esattamente questo, un grande artista. È una delle poche personalità leonardesche di tutto quanto il Novecento. Guillaume Apollinaire, tra i padri delle avanguardie, parlando di lui, ne sottolineò la capacità di essere addirittura un genio come quelli del Rinascimento toscano, musicista, scrittore, drammaturgo, scenografo, creatore di oggetti e ovviamente pittore. La mostra milanese cerca di vedere come nella pittura si possano riconoscere una serie di riferimenti ad altri linguaggi. Tuttora, anche nei titoli dei giornali di questi giorni, viene spesso definito come l'altro De Chirico, inevitabilmente. Sì, guardi, questo credo che sia uno degli errori gravissimi che si commettono a proposito di Savinio. La differenza fra i due è enorme. De Chirico è stato, pur essendoci tanti punti di consonanza, di vicinanza, ma De Chirico è stato innanzitutto un grande pittore, forse solo un grande pittore, lui stesso si definiva Pictor Optimus. Savinio invece è stato, come le dicevo prima, un grande artista, cioè la sua forza è quella di aver sondato più esperienze e più linguaggi. Questa in fondo è anche la sua unicità del panorama italiano. Senza dimenticare che esiste un Savinio scrittore che oramai è oggetto di un recupero e anche di un'ammirazione che risale almeno a 20 anni fa. La sua storia, Storia di Piera, fu un libro e poi un film di Marco Ferreri, che proprio ora esce in DVD. Da domani Piera degli Esposti sarà la Contessa Caetani nella fiction di Rai 1 Le Sorelle della Moda, dedicata alla storia delle sorelle Fontana. E in questi giorni torna sul set di Tutti pazzi per amore 3. Mi sono appassionata, racconta Marta Cagnola, alla televisione di qualità. sono stata fortunata di aver incontrato Riccardo Milani, che io chiamo il mio pigmaglione perché mi ha fatto ballare come Beyoncé, mi ha fatto, insomma, mi ha fatto fare delle cose altro che ardite. Mi ritengo fortunata di aver deciso abbastanza tardi di fare una televisione abbastanza cinematografica, abbastanza imprevedibile e fatta con una ricetta che tiene conto della qualità e non soltanto dell'addormentamento, insomma, ecco. Tra i ruoli che lei ha interpretato, tante donne volitive e audaci, forse perché lei ispira questa sensazione? Diciamo che in ogni personaggio che faccio forse c'è un po' di Piera, una storia di Piera che continua, forse hanno simpatia anche per Piera, ecco, voglio dire. Storia di Piera ha quasi 30 anni. Ecco, infatti mi colpì una frase di Corrado Augias che lo chiamavo un long seller. Io credo che la storia che ancora affascina ed è sempre di attualità è poi il rapporto della madre e della figlia. Una madre così, da una parte così la si vuole avere, da una parte ci si vergogna, ci si, ecco. Dunque io credo che questo straordinario rapporto che rimane di tutte le madri e di tutte le figlie qui si è reso più straordinario da questa, lo dico pure, insomma, madre straordinaria che ho avuto. Incredibile da sostenere, ma straordinaria per me. Bene, con questo è tutto. Non mi rimane che ringraziare Fabio Cantadori in regia, di salutarvi e naturalmente augurarvi un ottimo fine settimana in compagnia di Radio 24.